giornale, io ci credo ciecamente. Anestetico d'effetto, e avrai una faccia nuova grazie a un bisturi perfetto. Invitante, tagliente, splendido, splendente. Splendido, splendente, costa poco e finalmente io sorrido eternamente. Amo un camice innocente, si avvicina sorridente, è padrone, già si sente. Perdo i sensi lentamente come tra le braccia di un amante. Splendido, splendente, io mi amo finalmente, ho una pelle trasparente come un uovo di serpente. La, la, la, la, la. Come sono si vedrà, uomo donna senza età, senza sesso crescerà per la vita una splendente vanità. Splendido, splendente, come sono affascinante, faccio cerchi con la mente. Grazie a un bisturi italiano.